Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Perdere così, insomma, alle 5 del mattino dopo un testa a testa lascia un po' l'amaro in bocca, perché è come perdere ai rigori nella finale di Coppa del Mondo. Non ci sto a vivere i passati dei rimpianti, né per il Milan, men che meno per l'Italia. Che vanno anche un po' di moda le metafore calcistiche, che però non posso che dire che primo tempo 1-0, palla al centro e si ricomincia. Io lo considero un fatto di straordinaria importanza e soprattutto uno straordinario punto di partenza. Se potessi fare un paragone calcistico, direi siamo arrivati alla finale di Champions League dopo aver fatto i preliminari. Sì, ottimo. E vorrei che questo fosse chiaro a tutti, a coloro che sono convinti di aver già vinto. Quindi? A proposito di Champions League, qui c'è il mio amico Orfini che ricorderà una straordinaria performance nel primo tempo del Milan. Ah, e poi, quale? Ahimè, quella finale andò in un determinato modo. Quindi suggerirei a tutti di essere prudenti. Oh, Giacchetti! Giacchetti! Pensi di essere simpatico a ricordare Milan-Liverpool 3-0 e poi abbiamo perso i rigori? Ma porcaccia! Sono stati pensare dai giocatori del Liverpool nel ripalo della parata di Milan. Ma pensate... Ma pensa te, ma ti pare normale adesso tutti i rigori, la Champions League, 1-0, palla al centro, cioè... Ma questo mi ricorda il Milan-Liverpool! Mannaggia te, Giacchetti, meno male che non vota Roma, Tra l'altro aveva a fianco Orfini, presidente del PD, grande tifoso del Milan! Vabbè, parlano di calcio. Ieri ho ricevuto una lamentela, caro Lorenzo Nespoli, dicendo che a quest'ora ci si deve svegliare in maniera più soft. L'adagio di Albinoni. Non lo so, cari ascoltatori, cosa volete? Volete continuare a dormire, a poltrire, a tenere la testa sul cuscino o sotto il cuscino? A pensare ai vostri sogni, che chissà oggi si materializzeranno, le vostre bionde che avete sognato questa notte, i vostri muscolosi biondoni o moraccioni? Oppure volete più un inizio energetico? Non lo so, fate voi. Saluto l'Alpineo di Cuneo. E invece Marco di Porto Ceresio che dice pure salutami. Eccoci qua Marco. Pasquale da San Vito dei Normali. Normali? Da San Vito dei Normanni o Normali? Provincia di Brindisi, controllami un po'. Secondo me ha sbagliato. San Vito dei Normanni sarà in provincia di Brindisi. San Vito dei Normali. Ah, ecco, Normanni, forse mi sembra un po' più probabile. Allora, qui, cari amici, siamo alle 6.34 del mattino, 24 mattino, per l'appunto Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè, regia, qua tutti che pensano ai calci di rigore, alle elezioni. C'è il nostro direttore Umberto Brindani, direttore di Oggi, buongiorno. Buongiorno, meglio le Zeppelin. No, cioè peraltro Giacchetti, capisco che tu interista già i tuoi problemi con il Delby. No, ma io infatti non vorrei parlare di politica, vorrei parlare dei cinesi, dell'Inter. Parliamo di cinesi. A rivedere le stelle come titola il Corriere. Sì. C'era un messaggio politico anche in questo, le 5 stelle, perché tutto si mette insieme. Allora guarda, chiediamo subito cosa ne pensa di questa invasione dei cinesi che comprano il Milan, comprano l'Inter, comprano ad Aurorina Lussana, la nostra Aurora Lussana. Buongiorno caro Milan, un caro saluto a te, un caro saluto al Dire Tour. Eccolo lì, cosa stai ascoltando? Sempre tu, una... sul Donizetti, Gaetano Donizetti, Anna Bolena di bello. Gaetano Donizetti, va bene. Questa è musica, ragazzi. C'è chi si sveglia con le Zeppelin, chi con la Adagio di Albinoni e tu con Anna Bolena di Donizetti. Eccola qua, dedicata a te. Dedicata. Non lo so, si vede. Voi ascoltate i cinesi, io ascolto un bergamasco come Donizetti. Va bene, capito, direttore. A proposito di bergamaschi, ti fate l'Atalanta, che c'è il presidente di Bergamo e basta, finita lì. Cioè, deve essere di Bergamo, cioè, perché se no, già in provincia di Bergamo... Se i cinesi non vi van bene, voi dell'Inter e del Milan, cambiate squadra, una squadra di proprietà autoctona, dove gioca qualche indigeno, e non tanto, dire il vero, in Atalanta, vale. E basta, così non soffrite più. Hai capito, Brindani, ma cioè, queste sono contro la globalizzazione, ma cosa vuoi dire? Ma no, ma siete voi che ci avete quest'ansia perché arrivano i cinesi, cosa devo dirvi, allora, non fate lo so. Come me. C'hai l'ansia, direttore? No, io sono contento, guarda, perché prima avevo l'indonesiano, capito? Esatto. Dall'indonesiano al cinese meglio. So. Ti sembra di avere fatto un passo in avanti, insomma, dall'indonesiano al cinese. Ma sì, ma anche questi leghisti sono contro la globalizzazione, cosa vuoi? No, vogliono l'Atalanta guidata da un presidente di Bergamo, con i giocatori tutti di Bergamo. No? Ah, adesso cominci con la tua parafilia xenofila. No, non sono xenofilo. Dai, però guarda, ti giungano, mentre apriamo il Parlamento, i saluti di un nostro ascoltatore che ci ascolta da Lusaka. 9 gradi l'inverno australe ilizia. Ma dov'è Lusaka? In Zambia? Aiutami a capire. Lusaka, io sono ignorantissimo. Lusaka, guarda, è dura. Direttore prende tempo, Lorenzo Nespoli a internet... Capitale dello Zambia, incredibile, ci ho azzeccato. Lusaka, Zambia, ci stanno ascoltando anche da lì in questo momento. Allora, facciamo sapere, caro direttore, come sono andate le amministrative a Lusaka, in Zambia. Ecco, come sono andate? Sono andate, come si dice, a macchia di leopardo? Va bene. Abbiamo due grandi cose, insomma, sembrano due paesi diversi, Milano e Roma, no? Sì. Da una parte il bipolarismo vecchio stile, centro-sinistra e centro-destra, dall'altra il trionfo dei grillini, il trionfo della Raggi, il disastro del PD, il disastro di Forza Italia. non si capisce assolutamente niente. Non si capisce niente. Cioè la frase abbiamo due mondi diversi, Milano e Roma, è un assist per Aurora Lussana che non poteva credere ai propri occhi e alle proprie orecchie. Perché, cara... un assist anche per il fallimento di Salvini a Roma, no? Sì, possiamo dirlo, dai. Fallimento di Salvini o di Berlusconi, cara Aurora? Di entrambi. Tu che dici? Sì, è il suicidio di tutto il centrodestra che l'ha pagata cara, ha fatto passare. Sono mesi che litiga, che fanno pasticci, la gente ha già troppi problemi, starli a inseguire i problemi interni al centrodestra. No, vabbè, l'hanno pagata cara. L'hanno pagata cara. Però Salvini cosa ha detto ieri? Che dove c'è la Lega, il centrodestra vince, tranne a Roma più o meno così, sì, però certo. Era diviso. Però a Milano per onestà, Forza Italia ha il doppio di voti della Lega. Sì, è andata bene, la Gelmini ha fatto un bel esploit di preferenze. Sì, perché Salvini era in giro a far campagna elettorale. No, ma infatti sono elezioni strane anche dai risultati. Guardate che non è da sottovalutare questa cosa. Il polarismo imperfetto. Berlusconi a Roma sceglie Marchini, è direttore, un disastro. E per questo non va la Meloni. Invece a Milano ha il doppio di voti della Lega, si direbbe. Ma come Milano? E invece Berlusconi ancora a Milano può dire sono io il capo della coalizione. E come la vediamo? Guardate, c'è anche un elemento curioso di questo. Che sia a Milano che a Roma il centro-sinistra ha preso i voti al centro, cioè nel centro storico della città, dove ci sono quelli che hanno più soldi, posizione sociale. I borghesi. Esatto. E invece il centro-destra a Milano, i Guidini a Roma hanno pescato nelle periferie. Questo è un segnale. Esatto. È un segnale non buono per il nostro presidente del Consiglio, anzi per il nostro. Presidente del Consiglio è segretario del Partito Democratico, sì, è lì che dovrebbe andare a pescare i voti. Il nostro tutto, insomma, il nostro duce. Duce lo dici duce tu. Ovviamente è un'accezione latina. Dux. Ci conduce. Conducator. Si occuperà del PD. Renzi deluso, adesso si occuperà del PD, ha detto Renzi. Ah, del PD, certo, sì. Beh, è segretario del PD, quindi... già. Adesso penserà a quello. Certo. Sei contenta? No, incidentalmente è anche presidente del Consiglio, però vabbè, insomma, adesso questa priorità... Allora, quando fa il presidente del Consiglio dici che si occupa del partito, quando dice mi occupo del partito dici faccia il presidente del Consiglio, mettiti d'accordo anche te, insomma. Intanto pare che il referendum con questi voti non passerebbe. Quello così, staremo a vedere. Dicono gli analisti. Intanto Renzi dice non sia anche lui. Abbiamo vinto ma abbiamo perso. Non abbiamo perso ma abbiamo vinto. Insomma, non siamo contenti del PD. Almeno questa cosa di non mettere la faccia come al solito a dire abbiamo vinto tutti. Renzi. Infatti è bravo. Perché è insopportabile. Per una volta Renzi ha detto siamo andati male. Abbiamo sentito il solito confronto. Non siamo contentissimi. Senti qua. Il PD noi non siamo contenti. Noi non siamo fatti come gli altri che indossano il sorriso d'ordinanza dopo le elezioni e dicono beh, però abbiamo vinto. Questo lo fanno quelli vecchia maniera, quelli del teatrino della Prima Repubblica. Lui vuol far vedere che è un po' diverso. Tra l'altro, ragazzi, sul calcio continuano tutti, a parte che Renzi è andato da Conte, ma anche sentite Clemente Mastella ha dato un consiglio oggi, ho aperto il Corriere della Sera, sono stato riproiettato a 30 anni fa. Clemente Mastella, che è al ballottaggio a Benevento, e dice Renzi è andato da Conte, CT della Nazionale, si faccia dare consigli come dribblare gli avversari, se no sono cavoli amari per lui. Ma adesso io vorrei capire perché stravince su tutti, ragazzi, una dichiarazione che abbiamo pescato dal rappresentante del Movimento 5 Stelle, quello di Milano, quello che assomiglia al disturbatore Paolini, non so se avete presente proprio fisicamente. Non ha preso tanti voti. Però adesso, siccome i voti contano tutti, ha preso un 10% di voti e ora tutti guardano al ballottaggio. Adesso chiederò anche a Aurora Lussana chi voterà, chi deve votare il perfetto leghista al ballottaggio. È stato chiesto anche a Corrado Gabriele chi voterà al ballottaggio. Sentite la risposta. Per chi voterà al prossimo turno? Lei come ha risposto? Allora, io non voterò, o meglio, mi recherò al seggio e annullerò la mia scheda. O scrivo il nome di Beppe Grillo, o il mio, o faccio un disegnino. Il disegnino no! Il disegnino no! Il disegnino no, vi prego, il disegnino, ma dove siamo? In seconda elementare, Brindani, quante volte nel segreto dell'urna hai messo la fetta di mortadella e mo magnatevi infatti, pure questo. Mancava quello, mancava sì, la fetta di prosciutto di mortadella. Il disegnino, io vi prego, vorrei vedere che disegnino farà, cosa farà di disegnino, sarà un disegnino di quelli volgari, quando da adolescenti si imbrattavano, cosa farà Brindani? Farà quello che tu stai pensando. farà quello, Aurorina, cosa farà il disegnino? Io ho già i miei problemi qua a Cantù, che mi fa la moschea, non lo so, guarda, ma quale moschea? E c'è Ramadan, ha fatto la moschea vicino casa, guarda, lascia perdere Ramadan. Sono problemi, insomma, quindi non lo so, votino quello che vogliono i grillini a Milano. So che Salvini dice piuttosto che votare l'establishment, il PD, dare una mano a Renzi, quindi al governo, tanto vale votare, cos'è che diceva, insomma, chi i grillini, vota la Raggi, vota la Raggi. Magari anche i grillini a Milano potrebbero far così, piuttosto che sostenere Mister Expo, lì il Sala, andare su rappresentante il centrodestra Furbina, no. Non si fa così, non si fa così. Loro hanno detto che non... Però se magari il grillino medio, magari, non so, ecco, è anti PD il grillino medio? È più anti PD o anti centrodestra? Sai, in questo momento... A me mi sembra tutti di sinistra. A me sembra che siano gran parte voti contro, no? Si vota contro qualcosa, oppure i leghisti votano a favore di uno che è contro qualcos'altro, no? Sempre contro, quindi è inevitabile che voteranno per il centrodestra a Milano, quindi saranno problemi per Sala. Il secondo tempo finisce, sono proprio i rigori, ballano 5.000 voti. Però attenzione, prima di andare al traffico abbiamo due domande fondamentali. Una arriva, pensa te cara Aurora, dall'Andalusia. Demanda per Aurora, ma la bimba quando nasce o è già nata? No, non è ancora nata. E il nome poi stabilito? No, non l'abbiamo ancora deciso, caro Sandro da Aguamarga. Marga, tu pensi di avere deciso un nome, tu e tuo marito, che poi noi cambieremo ovviamente qui. Sto approfondendo, sto facendo un po' di letture. Ho capito, ma tra un po' nasce. Spero che la provvidenza mi illumini, non lo so, vediamo. Vabbè, siete orientati su qualcosa? Ecco, anche così? Pensavamo un nome comunque cristiano, ecco, non so, ripeto, non so, ecco, quello sì, adesso non so, poi... È una femmina. Ecco, quello starei sulle mie radici giudaico-cristiane occidentali, poi vedi tu. Infatti vediamo noi, adesso vediamo di andare al traffico e poi dopo cerchiamo di capire, tra poco. Ma voi chi diavolo vi credete di essere? Siete solo... Caro Mina, io sarò una testa di cazzo, come dici te, ma tu sei una bella ipocrita, sei. Prima era una testa di minchia, il leghista fascista. Adesso è un eroe. Ciao Mina, sono Pirlone. Ci vuole la Merkel in questo paese, la Merkel, la critichiamo, ci vuole la Merkel. Io voglio i tedeschi che ci mettano in riga. Che bello il partito unico dei 5 Stelle. Prendono un numero di voti, una percentuale e finito. Nessuna aggregazione, messi insieme, uniti, divisi, fanno ridere. Renzi ha preso una batosta e la prossima volta non prende nemmeno un voto. Scusate, ma io sono proprio contento perché il migliore risultato l'ha ottenuto Ignazio Marina, il quale ha ascoltato il mio consiglio e è tornato in sala operatoria in nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. va bene, questa è la nostra segreteria. Intanto ci chiedono Cunegonda o Rosmunda, possono... Ah, beh, Cunegonda, meraviglia, la protagonista di uno dei miei romanzi, Candide di Voltaire. Mm-hmm. E Rosmunda, come... Beh, oppure ci suggeriscono anche adesso Trinità. Trinità, potrebbe essere Trinità, il nome per la figlia di Aurora Lussana. Sono un'umile fedele. Potresti chiamarla Favor, come la bambina, quella che è arrivata in nome, insomma, di questa unione tra popoli, unione... Beh, ma mia figlia è il simbolo dell'unione fra i popoli, scusami. Perché? E io sono di Bergamo, mio marito è brianzolo. Mamma mia, ragazzi, è il massimo. Brindani, è il massimo che può concedere una bergamasca che sposa un brianzolo. È il massimo della globalizzazione. È il massimo della globalizzazione, una bergamasca che sposa un brianzolo. Ci sono già stati problemi, perché tensioni tra popoli, tra parenti, lingue diverse. Io vengo dalla Repubblica Serenissima, poi c'era il Ducato di Milano, insomma. Ah, mamma mia. No, tra l'altro suggeriscono anche Assunta, Speranza, però dovreste mandarcelo via audio al 349-238-6666, via audio. Cosa c'è? Vabbè, c'è ancora qualche... No, mica tanto, un mesetto. Vuoi fare una diretta dall'ospedale qui a 24 mattino? No, ma stamattina... No, perché stamattina sono già in giro da 2 ore perché qua c'ho il mini orto devastato. Se qualcuno in ascolto sa come si fa a debellare le lumache, che mi sta mangiando il basilico dall'orto... Non lo so, però io so che il direttore di oggi ha delle grandi rubriche anche di utilità per tutti. Sì, lo so, per esempio, direttore. È fatto bene come settimanale. Certo, lo so. Grazie. Caro direttore, magari domani, nel numero di domani di oggi, scopriremo come debellare le lumache dal basilico. Ma mangiato tutto. Posso? Sì. Puoi riaprire gentilmente l'edizione che è già in stampa per domani per mettere una mini rubrica. Fermo le rotative, faccio intervistare Aurora che spiega come si fa. No, lei lo chiede, ci vorrebbe un esperto. Ma devastato, c'era 10 euro di basilico che mi ha mangiato su... Guarda che però i nostri ascoltatori, tu pensi che i nostri ascoltatori siano così distratti, ma guarda qua. Già 2 consigli arrivano. Uno, sale fino per le lumache. Sì. E secondo, suggeriscono questo, quindi pare vero, fare un buco e metterci la birra per le lumache è fatta. E un altro dice bicchiere di birra contro le lumache. Alle lumache. Tutto in tempo reale. Tutto in tempo reale. Di servizio pubblico. Ma bravo. C'è, esatto. Un altro mi dice, Aurora, esiste la lumachina. Non ho capito, ma credo che sia una roba che stermina le lumache. Insomma, gli animalisti ci vorranno molto bene in questo momento. Perché Aurora Lussana. No, io però volevo chiedervi una cosa un po' più seria, che è questa. Oggi ho letto sul Corriere della Sera che l'Europa, caro direttore, perché poi arriva Aurora Lussana che so già cosa dice, l'Europa oggi metterà a punto un piano per contrastare le migrazioni, cercare di limitare i danni, insomma, delle migrazioni. E questo piano prevede, insomma, dare un po' di fondi, investimenti, soldi, piani di cooperazione con quei paesi da dove partono. Non so, anche il Libano, si inizierà con l'Eritrea, con alcuni paesi africani, eccetera. Insomma, ma questa cosa, c'è una soluzione, direttore, oppure dobbiamo fare i conti con un nuovo mondo? Che a Aurora Lussana non piace, ovviamente. No, beh, adesso non è che possiamo in 30 secondi trovare la soluzione. La soluzione non c'è. Però diciamo una cosa, che la soluzione, scusate se sarò retorico, non sono i muri... né i muri veri né quelli di chi propone di una follia di lasciarli in mare perché così imparano a non partire dalle coste della Libia. Queste sono follie, insomma. Non c'è mai stata l'Europa fino adesso. L'Europa comincia a muoversi. Se si muove tutte insieme, forse qualcosa riusciamo a combinare. Se ci costruiamo i muri tra di noi, non so se Aurora è d'accordo, ma non andiamo da nessuna parte. Cioè, l'idea, il muro, no, non la soluzione effettivamente è complessa, ci si può sbattere la testa, ma l'idea del muro, oppure di lasciamoli lì in mare. Ma non possiamo tornare a 100 anni fa, al Medioevo, dai, cioè, non si può. Capito, cara Aurora? Sì, sì, no, ma tutti sogniamo un'Europa senza muri. Il problema è che proprio così efficaci o inefficaci lo stiamo vedendo cosa rappresenta. Scusa, là dove hanno fatto i muri però i migranti non passano più, penso all'Ungheria. Ma guarda Ventimiglia, ma stamattina... Ho capito, ma c'è, e arrivano fino al muro, arrivano fino al muro. Sì, e però, rimangono allora, lì al muro, cioè va bene. L'ospitale socialista di Olanda ha fatto un bel muro a Ventimiglia, perché oggi ancora sono due ore che vedo il tamburo della All News che... C'è la notizia che ci sono tensioni stamattina ancora a Ventimiglia perché, ripeto, nell'ospitale Francia Socialista di Olanda non ci entri. Ma e tu pensi, dire, cioè, pensi con questo di no, limitare no, il però, problema? Cioè non ti porti il problema in casa? Ecco, non ti porti il problema allora, in casa. L'immigrazione globale è assoggettata a logiche di economia globale, quindi della volontà di spostare e sradicare masse di uomini e di donne spostandoli come merci, per me è un'aberrazione. No, per me sì, scusami, per me da immaginare un mondo dove spostiamo gli esseri umani come merce. Ma Aurora, guarda che noi io mi auguro che l'Europa, cioè per lei le migrazioni sono il prodotto anche delle nostre politiche. Ma assolutamente, quindi, ecco. Però quando si dice no, i muri non funzionano, però scusate, là dove l'hanno fatto il muro, ma sì, non passa, va bene, no, arrivano fino a lì, ma non è che non partono dall'Eritrea perché sanno che c'è il muro tra 20 miglia e la Francia, o no, direttore? Però la nostra politica di richiamo non aiuta, perché sti qua poveri mi partono tutti i giorni col balcone perché sanno che più o meno c'è una politica di richiamo, dai, non c'è nessuna politica ma che questi sono le masse che noi spostiamo, ci sono dei disperati che partono e però li hanno salvati a sud di Creta, a sud di Iraq, e tra gliele hanno portati in Italia, no, nel senso, ma va bene, ripeto, il nostro paese ospitale è a posto per tutti, può accogliere tutti, va bene così, però non stiamo qui per fare le analisi, guarda, con la crisi nelle periferie dove si soffre, la gente non va a votare, cioè o c'è la crisi e siamo un paese in difficoltà, oppure siamo un paese ricco pronto a ospitare tutta l'Africa. Vabbè, no, ma è chiaro che insomma la soluzione non è facile, però oggi l'Europa suggerirà qualcos'altro. Ma va, ognuno per sé, Dio per tutti, in Europa, dai, su. L'Europa, dai, effettivamente, dire l'Europa fa già un po' sorridere, su questo sono d'accordo. Però suggeriscono anche, oltre alla birra, la cenere per tenere lontane le lumache, Serena da Firenze, e anche un altro ascoltatore, la cenere, cara Aurora. Fermare le lumache infedeli che ce l'hanno col verde basilico padano. Questo ci scrive un altro ascoltatore. Io ringrazio intanto Aurora, Luzzana e Umberto Brindani, domani in edicola col nuovo numero di Oggi. Grazie, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti alla rassegna stampa, a raccontare quello che dicono i giornali, soprattutto il giorno dopo le amministrative, il primo turno. E allora dai, andiamo a farci questa abbuffata di quotidiani. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a martedì 7 giugno e i titoli, Il Sole 24 Ore, l'unico quotidiano che non apre strettamente sulle amministrative ma sulla presidente Fed Yellen, che dice rischi da Brexit e lavoro, Stati Uniti, USA debole, sterlina sotto attacco. Questo è il titolo di prima pagina, anche se c'è lo speciale amministrative in prima pagina. Il PD soffre nelle grandi città, Movimento 5 Stelle avanza a Roma-Torino, testa a testa Sala Parisi a Milano. Allora, il commento soprattutto sugli altri quotidiani in prima pagina è quello di Renzi, il premier. Renzi deluso, ora mi occupo del PD, è il Corriere della Sera che apre così. Per Repubblica, Renzi deluso dal voto si cambia, la Raggi, noi pronti a governare. Per il Messaggero, Renzi deluso, il PD ha problemi. Per la Stampa, sindaci, un'Italia sempre più divisa. Il Fatto Quotidiano, Renzi non ho vinto né perso, ma il PD ha il 22% di voti in meno. Per Il Giornale, affonda il sogno di Renzi, Forza Italia doppia la Lega. L'Unità invece, quotidiano vicino al PD ovviamente, palla al centro, questo è il titolo di prima pagina, mentre il manifesto ha la foto di Renzi e il titolo ex voto. Avvenire invece, tre poli, nessun padrone, mentre l'apertura di Libero è ha un tocco di originalità, perché vede questa lettura del primo turno delle amministrative è così: comandano le donne, politica coi tacchi a spillo. Ci sono le foto di Virginia Raggi, di Chiara Appendino, che ha ottenuto il 39% a Torino, di Maria Stella Gelmini, che ha preso 11.000 preferenze a Milano, e Giorgia Meloni, che ha ottenuto comunque il 26% a Roma, pur non essendo andato al ballottaggio. Comandano le donne, il titolo di Libero. Comunque sulle amministrative torneremo più tardi, voglio partire da altre notizie che fortunatamente, è sempre così, il giorno dopo il voto, tutto voto. Il giorno dopo, cioè il martedì, ancora molto sul voto. Da domani fioreranno anche altre notizie sui giornali che cominciano comunque già a comparire. E a ampio spazio il nuovo piano europeo che verrà presentato oggi per non far partire i migranti. È vero che fa un po' sorridere pensare a questa Europa che va un po' ognuno per sé senza grandi unità, ma insomma speriamo. La Commissione europea oggi presenterà un piano per convincere i 28 governi europei a promuovere iniziative di sviluppo nei paesi di origine in Africa e in Asia per frenare i flussi migratori diretti in Europa. La Commissione dunque proporrà queste iniziative in cambio del blocco dei flussi. Anche se il Corriere della Sera fa già notare con Ivo Caizzi a pagina 27 che non si riescono neanche a trovare i 60 miliardi per la fase iniziale, per la riforma del Trattato di Dublino, per l'opposizione dei vari premier, dei vari governi. Quindi partiamo con un nuovo piano quando ancora non si trovano i soldi per il piano precedente, però ci vuole sempre l'ottimismo, e scrive Caizzi a pagina 27. In pratica Bruxelles dovrebbero sottoscrivere contratti con paesi extracomunitari offrendo iniziative di sviluppo e altre concessioni in cambio dell'impegno a frenare sul posto i potenziali migranti orientati a partire per l'Europa. E con quali paesi si inizierà a stipulare questa sorta di contratti? Libano, Giordania, Tunisia, Niger, Nigeria, Mali ed Etiopia. La differenza con l'accordo con la Turchia, che ha previsto rapidamente 6 miliardi europei per Ankara, sta nell'incertezza dei finanziamenti e nei tempi per concludere gli accordi con questi governi extracomunitari. Questo è il piano, anche il Messaggero dedica una pagina migranti. Ecco il piano europeo, salva Africa da 70 miliardi. Il Messaggero in realtà la cifra dunque ce l'ha. Due fondi, uno subito da 8, l'altro di 62. Questo, racconta David Carretta, è il piano che oggi Federica Mogherini presenta a Strasburgo. E Federica Mogherini, alto commissario e rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, parla alla stampa. Intervistata da Alberto Simoni a pagina 19, gli stati europei rispettino gli impegni sui profughi. Dice così: c'è un accordo sostanziale tra i ministri degli esteri sulle politiche esterne e sulle migrazioni. Quanto presenteremo oggi è un passo avanti e speriamo che al consenso politico seguano i fatti. Già alla Valletta, al summit, ci fu lo stanziamento di 1,8 miliardi per progetti di sviluppo. L'Africa Trust Fund si arricchirà di 500 milioni. Si tratta quindi di poter impiegare 2,3 miliardi di euro di fondi comunitari. Una cifra che ci consentirebbe di stringere legami e avviare progetti con l'Africa. E dunque conferma la Mogherini, che si guarda soprattutto poi per quel che riguarda anche fuori dall'Africa, Giordania e Libano in Medio Oriente, e in Africa Nigeria, Senegal, Mali, Etiopia e Niger. Dunque stringere accordi con questi paesi attraverso finanziamenti, contratti, per impedire agli immigrati di partire o rendere le condizioni di vita migliori lì in modo che non partano, mettetela come volete. Questo è quello che verrà presentato oggi alla Commissione europea, staremo ovviamente a vedere. Intanto, per quel che riguarda la cronaca, tutti i giornali ovviamente danno rilievo a quello che è successo con l'arresto di un francese in Ucraina considerato un estremista e che era pronto a fare attentati agli europei di calcio che partivano tra qualche giorno in Francia. Si tratta dell'arresto del 25enne Grégoire Moutot, arrestato dal confine tra Polonia e Ucraina, sospettato di aver pianificato attacchi in Francia, perché a bordo della sua auto sono stati trovati fucili d'assalto e, pensate, ben 125 kg di tritolo. Per la verità, il Corriere della Sera racconta, per esempio con Stefano Montefiori, a pagina 22, che le autorità francesi sono molto prudenti, molto più di quelle ucraine. Non hanno neppure affidato le indagini alla procura antiterrorismo, perché di questo caso, il caso di Grégoire Moutot, professione allevatore, si stanno occupando l'ufficio di lotta alla criminalità organizzata, la polizia di Nancy e il consolato di Kiev. Insomma, racconta al Corriere che la ricostruzione offerta dall'Ucraina è piuttosto precisa, anzi fin troppo precisa, tanto da far sospettare che ci sia qualcos'altro di sotto. Questo francese è andato a combattere nel Donbass, dove è ancora in corso la guerra tra le forze regolari ucraine e i separatisti pro-russi. E insomma, la vicenda che viene spacciata dall'Ucraina come un fanatico che voleva colpire con atti di terrorismo in Francia viene dipinta in maniera un po' diversa. Un francese arrestato in Ucraina, c'è anche un po' dunque il mistero sul movente, sta di fatto che il titolo che c'è su tutti i giornali è "voleva colpire agli europei, preso con 120 kg di tritolo". Questo almeno anche il titolo del Messaggero. Anche Libero titola: "A Euro 2016 mancava solo il pazzo nazi, preparava attentati contro islamici ed ebrei". Questo almeno è la versione adatta da Libero. In ogni caso, rimaniamo un attimo all'estero. Signori, cosa ti ha combinato Zuckerberg, il fondatore di Facebook? È giusto? Non mi sbaglio? Ma io dico, ma la privacy. Quante volte vi dico la privacy? Attenzione quando scegliete la password. Hai scelto bene la tua password, Peter, perché è una di quelle password belle alfanumeriche, tutte con numeri, lettere, che neanche... No, non la ripeto in onda, scusa. No, scusa se non la ripeto per la tua sicurezza in onda, anche perché già non me la ricordo. Ma invece che ha combinato Zuckerberg? Lui che dovrebbe vivere con l'ossessione della privacy. Sapete qual era la password di Zuckerberg per Twitter? Da. Testuale, Zuckerberg sceglie la password da e gli hacker ovviamente gliela violano e quindi è stato bucato il suo profilo Twitter, come racconta Massimo Sideri sul Corriere della Sera. Ma la dichiarazione di Zuckerberg è: ma Facebook è salvo, lì avrà messo du, non lo so Zuckerberg, da uno, per differenziarla magari da. Però ecco, il Corriere fa una pagina che è un po' un monito, come dire, anche come scegliere le password, cari italiani, per i vostri profili, le regole antintrusione. Una pagina intera, pagina 29, da. Questa è la scelta di Zuckerberg. Va bene, vediamo all'articolo che mi fa più pensare della giornata, e voglio saltare sul Fatto Quotidiano, dove Antonio Massari racconta la richiesta legittima, a mio modo di vedere, in un paese che dovrebbe essere considerato trasparente come l'Italia, come si spera che sia l'Italia, la richiesta legittima del Fatto Quotidiano di entrare in possesso dei dati, di avere l'accesso agli atti riguardo a questo mistero che era stato diffuso da Dago Spia su un presunto regalo ricevuto dal ministro della difesa Roberta Pinotti. Si parlava di un Rolex quando era andata di recente in un incontro in Qatar. E il Fatto Quotidiano ha fatto una richiesta d'accesso ai dati al ministero, a dire: possiamo, per il diritto di cronaca, sapere se è vero, se non è vero, quali doni ha ricevuto il ministro in quell'occasione ufficiale. Risposta del ministero: vietato verificare se Pinotti ha ricevuto i Rolex. Il ministero della difesa nega l'accesso agli atti, perché scrivere un articolo e dunque il generico richiamo al diritto di cronaca non è una ragione valida. E cosa dovrebbe scrivere un giornale? Quale altra motivazione dovrebbe avere un giornale per fare una richiesta di accesso ad atti di un'amministrazione pubblica, dunque pagata dai nostri soldi, pagata con le nostre tasse, perché faccia servizi al cittadino italiano? Cosa dovrebbe fare? Eppure, top secret, Pinotti, vietato verificare se ha ricevuto i Rolex. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Intel! Anche l'Intel, scuola cinese, milanese dell'informazione! Avanti, avanti, continuate così, bravi, bravi, complimenti, complimenti. Vabbè, d'altronde l'Intel e tra poco anche il Milan e via con questi luoghi comuni sui cinesi che conquistano almeno Milano dal punto di vista calcistico, l'Intel sicuramente e tra poco anche i Lossoneri forse. Allora, cari ascoltatori, appunto, buttiamoci e gettiamoci a capire che succede come analisi per quel che riguarda il voto alle amministrative il giorno dopo il primo turno elettorale in attesa dei ballottaggi con i commenti dei vari politici. Bisogna dire che per una volta Renzi ha rotto un po' quella classica tradizione che prosegue da decenni a dire tutti abbiamo vinto il giorno dopo le elezioni. Invece Renzi si è presentato in conferenza stampa, e fanno notare i giornali, non si è presentato a Palazzo Chigi ma nella sede del Partito Democratico, quasi a rimarcare che parlava proprio da segretario del PD, a dire che il centrodestra è vivo e vegeto, come racconta Marco Galluzzo a pagina 2 del Corriere, a minimizzare il risultato di Roma, ma ad ammettere anche che il PD ha problemi, che non siamo andati bene, anche se restiamo saldamente in testa, abbiamo vinto in 1000 su 1300 comuni e siamo attorno al fatidico 40% in molte città. Dice Renzi, il Movimento 5 Stelle canta vittoria, ma governa in appena 17 comuni su 8000, qui vanno aggiunte altre 4 municipalità. Ma certamente non siamo andati bene, vogliamo di più e restiamo in testa quasi ovunque. E poi ancora nel commento che ha lasciato sulla sua e-news, quindi un commento scritto, Renzi dice: noi vogliamo vincere ovunque, ma in fondo il voto amministrativo non è un campanello d'allarme, sono due cose diverse. Però non indossiamo il sorriso di ordinanza, volevamo fare meglio, soprattutto a Napoli, dove il risultato è il peggiore del partito, dove da qualche anno non riusciamo a esprimerci al meglio. Per questo tra l'altro è stato anche annunciato il commissariamento del Partito Democratico proprio a Napoli. Insomma, sempre nell'analisi di Aldo Cazzullo, invece a pagina 3 del Corriere, Renzi, che aveva tre missioni quando è andato a Palazzo Chigi: riformare la Costituzione, rilanciare l'economia, ridimensionare Grillo, diciamo ha fatto una prima partita che si deciderà a ottobre. La seconda, rilanciare l'economia, è ancora da vincere, e per quel che riguarda la terza, e cioè limitare, ridimensionare Grillo, per ora quella partita è perduta. Nel senso che Renzi non è più riuscito a prosciugare il bacino dei 5 Stelle, oggi due candidate del tutto prive di esperienza amministrativa, come la Raggi e l'Appendino a Roma e Torino, sono oltre il 30% in metropoli chiave. Anche se Renzi dice se Giachetti farà il Giachetti saranno due settimane divertenti. Questo almeno è quello che dice davanti ai cronisti, davanti ai riflettori. Ma attenzione, perché c'è un retroscena interessante di Fabio Martini sulla Stampa che suona così. Fabio Martini, lo sfogo del segretario, cioè Renzi, nella notte a 5 Stelle. Dobbiamo avere anche noi candidati così. Sono le 2.33 di notte, sul televisore di Renzi, al piano nobile del Nazareno, apparve per la quinta proiezione Rai per Roma, una quinta proiezione finalmente rassicurante per Roberto Giachetti. E Renzi dice ai suoi collaboratori: ragazzi, vado a dormire. Questo si legge nel retroscena sulla Stampa a pagina 1 e poi prosegue a pagina 7. Ma Renzi, prima di andare a dormire, dà due stoccatine a Giachetti. Uno, ha sbagliato campagna elettorale, Roberto non ha fatto Roberto. E poi, mi spiegate come mai noi non siamo capaci di esprimere candidature giovani e competenti? ha chiesto, evidentemente invidiando le candidature del 5 Stelle, se non altro Virginia Raggi e Chiara Appendino. E poi l'invito a Giachetti: battere di più sul tema della sicurezza, fare una campagna più populista. Ah, e poi accusano tutti, partono le accuse di essere populisti, anche l'accusa a me, sei troppo populista. Questo secondo retroscena della stampa. Renzi ha accusato Giachetti di aver fatto una campagna elettorale poco populista. Meditate, gente, meditate. Orfini, presidente del PD, intervistato da Giovanna Casadio su Repubblica, dice: siamo stati puniti per Marino e Mafia Capitale. Ignazio Marino, ancora. Per Ignazio Marino. Non c'è alcun bollettino di guerra, siamo partiti con l'handicap di Mafia Capitale e di Marino. Così Matteo Orfini, che poi nella sua analisi alla domanda imbarcare Verdini, chi ve l'ha fatto fare? Risponde Orfini: non c'è dubbio che dove è stata scelta l'alleanza con Verdini il PD ha perso, quindi mai più, meglio di no, è una scelta controproducente. Questo Orfini. Dall'altra parte ovviamente Virginia Raggi si gode, passando una giornata con suo figlio, il successo al primo turno, punta ovviamente al successo finale, quello di 15 giorni del ballottaggio, tra 15 giorni. C'è interessante anche qui un retroscena che riguarda Beppe Grillo, lo trovate sulla Stampa e sul Secolo XIX, Ilario Lombardo, lo leggo a pagina 3 del Secolo XIX, Ilario Lombardo: hai visto che abbiamo combinato? Seduto in un bar di Nervi, nella sua Genova, Beppe Grillo parla al telefono con un ignoto interlocutore e racconta al Secolo, evidentemente origlia un po' questa telefonata. Sai che ho un problema e non posso essere io il capo del movimento. Così dice sempre a questo ignoto interlocutore al telefono Beppe Grillo in questa confessione rubata al telefono che riapre il solito interrogativo, cioè chi sarà il leader di questo non partito che è sempre più un partito? Luigi, ho dato, adesso tocca a voi, insiste Grillo con Di Maio e gli altri del direttorio al telefono. Insomma, il comico si gode lo spettacolo per la prima volta dalla platea e non dal palco, segno che davvero il movimento comincia a camminare da solo. Infatti c'è anche questo retroscena di Virginia Raggi che passa la giornata appunto con il figlio e racconta al Corriere della Sera quando incrocia alcuni genitori del compagno di scuola di suo figlio, a uno che gli chiede: ma Grillo l'hai sentito? Certo che l'ho sentito, se c'è al ballottaggio bene, se no va bene lo stesso. Questa è la frase di Virginia Raggi. Insomma, un movimento che si smarca sempre più dopo la morte di Casaleggio e dopo che Beppe Grillo si è un po' fatto da parte, si smarca sempre più dalle figure ingombranti, ma anche dai loro leader e dai loro fondatori, per camminare un po' con le proprie gambe. Oh, questo per quel che riguarda Virginia Raggi. C'è anche da aggiungere, secondo il Fatto Quotidiano, che a giorni verrà annunciata la giunta eventuale in caso di vittoria e si fanno alcuni nomi, molti sono stati smentiti, però due nomi dati dal Fatto Quotidiano sono questi: l'urbanista Paolo Berdini, che è stato spesso anche nostro ospite di 24 Mattino, è molto e profondo conoscitore del territorio urbano capitolino e anche del territorio italiano, quindi professor Paolo Berdini, e Rafael Rossi, tecnico che prima a Torino e poi a Napoli ha progettato e gestito il ciclo dei rifiuti. Chissà se saranno smentiti anche questi come nomi, ma sono i nomi dati dal Fatto Quotidiano su una possibile giunta Raggi. Vabbè, prima di venire alla questione del centrodestra e dunque Salvini che accusa Berlusconi, la Meloni che accusa Berlusconi, Berlusconi che risponde colpo su colpo dicendo abbiamo il doppio dei voti della Lega a Milano e quindi siamo ancora noi di Forza Italia a essere i leader, Salvini che dice chissà quanto è costato alla Gelmini prendere tutte queste preferenze con una frase un po' sibillina. Prima però di tutto ciò c'è il Mauro Meazza. San, se fosse giapponese. Populista. Buongiorno. No, continuiamo con queste ironie abbastanza facili, peraltro. Sai che ci prenderemo così per il culo per un pochino. Sì, temo che dovremmo invece iscriverci a un corso di cinese entrambi, ambedue. Perché se vedi, ad esempio, anche sul Sole 24 Ore di oggi, appunto questo passaggio di proprietà per quanto riguarda l'Inter, da parte della cinese Suning, ma si dice anche che si va verso un summit decisivo per la cessione del Milan, nella stessa pagina, decisivo. Sì, decisivo, lo leggo qua. Quindi decisivo. Nonostante il traccheggio, diciamo, anzi il placcheggio mi verrebbe da dire, saremo presto invitati a questo derby assolutamente asiatico. Va bene, quelli non che mangiano i bambini, da bambini a squadre di calcio. Non riesco a seguirti. Ha detto il presidente Berlusconi, mangiano i bambini. Sei troppo populista. Volevo dirti, ci sono anche altre cose sul Sole 24 di oggi, ovviamente, oltre ai commenti, alle analisi sul voto e sull'andamento nelle grandi città, con anche dei focus, degli approfondimenti sui problemi della gestione delle grandi città. Ti volevo segnalare questo dato di Banca Italia che non è tanto buono, perché rivede al ribasso la crescita per quest'anno, la posiziona all'1,1, stavamo quasi a 1,5, invece Banca Italia ha rivisto al ribasso, non è una ottima notizia, diciamo così. Vanno meglio invece le entrate fiscali che stanno crescendo. Hanno segnato un più 1,7, ma se tu togli il canone RAI, che sai che dovrai pagare da luglio, sì, tu paghi il canone RAI. Come sempre. Se tu togli quello e altri correttivi, insomma, l'incremento sarebbe del 4,9, quasi 5 punti, che non è male. Potrebbe persino essere un buon segnale il fatto che aumentino le entrate, perché evidentemente c'è più attività. Ti voglio poi segnalare un articolo, leggi con calma l'inchiesta di Jacopo Giliberto sul contrabbando di benzina e di gasolio nelle pagine di commenti oggi sul Sole 24 Ore. Devo fare un attimo un passaggino qui Radio Fisco, sì. Mi consenti? Come no? Qui Radio Fisco abbiamo un'analisi sui correttivi di Gerico negli studi di settore per i professionisti. Ah. Tu non hai capito, ma chi deve capire ha capito. Tutti a Gerico. No. A Gerico. Allora, sappi poi che per IMU e TASI proseguiamo giorno dopo giorno a dare delle risposte alle domande che sono arrivate alla casella di posta elettronica e anche spiegazioni e approfondimenti in vista della scadenza del 16 giugno. Domani poi ci sarà un focus con il Sole 24 Ore di 16 pagine sull'IRAP, ma in chiusura come non ricordarti che oggi è martedì. Certo. Ma è presto anche per te sarà martedì. E allora, essendo martedì, c'è la pagina di Condominio. Oh, bravissimo! E oggi parliamo di gestione dell'acqua, di gestione idrica. Ma tutto questo sul Sole 24 Ore di oggi, per il momento, traffico! Detto genovese, medio e braga sguaranto, cuca o cu sguaronte braga. Vabbè. Allora, alle 7:50 minuti siamo qui appunto a commentare invece la reazione del centrodestra. Si accusano un po' in maniera incrociata, soprattutto per il voto a Roma, dove Berlusconi ha appoggiato Marchini, Salvini ha appoggiato la Meloni. Il risultato, se si fossero uniti magari con un candidato unico, sarebbero probabilmente andati al ballottaggio. Così no. L'ira di Salvini, Silvio ha sbagliato. Questo è il titolo del giorno a pagina 7. Al secondo turno voterei i grillini, questo Salvini. E rincara la dose Giorgia Meloni, intervistata da Carmelo Lopapa su Repubblica, pagina 13. È dura a dire Berlusconi purtroppo non è più lucido nella migliore delle ipotesi. Le sue manovre a Roma sono state finalizzate a regalare il ballottaggio a Giachetti e Renzi. Non credo gli si possa più affidare alcunché. Questa Giorgia Meloni, durissima, forse anche delusa, molto delusa per la sconfitta elettorale, anche se lei dice Mai avrei potuto farcela con la panza, dicevano, e invece la risposta l'ha data al 20% dei romani. Mai un insulto in giro per la città, mai una cattiveria. Mi hanno commosso. Una signora mi ha regalato le scarpine per la bimba, una ragazza mi ha fermato per donarmi un vestitino. Certo, in un paio di occasioni mi sono ritrovata stremata in comizi con 1000 persone a dire: e mo questi che gli dico? Ma hanno capito, mi hanno incoraggiato, mi hanno applaudito. E Berlusconi? Berlusconi è l'unico dei grandi leader che ieri non ha parlato. Non ha parlato pubblicamente, anche se la linea di Berlusconi, secondo molti, è questa: a Roma scheda bianca. Questo è il titolo almeno del giornale, a pagina 5. Il Cavaliere analizza i flussi, guarda con ottimismo al secondo turno, soprattutto guarda a Milano, dicendo: siamo e restiamo i leader della coalizione. Effettivamente a Milano, se uno guarda Milano, Forza Italia ha preso il doppio di voti della Lega, quindi insomma c'è da guardare in modo variegato al voto, eh. Allora vabbè, trovate ovviamente tante analisi. Vi segnalo due pagine scritte tra l'altro da un grande fisico, Carlo Rovelli, sul Corriere della Sera, pagina 30, parlano della luce verde per il progetto europeo LISA Pathfinder, guidato da Stefano Vitale. Di che cosa si tratta? Si tratta di due pagine del Corriere della Sera, pagina 30 e 31, ovviamente un progetto molto complicato, difficile da riassumere così in 30 secondi. Comunque è un progetto sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea, vi fanno parte un paio di migliaia di scienziati di 7 paesi, ma Stefano Vitale è quindi italiano, insieme a Carsten Danzmann, guidano questo progetto. L'idea è quella di creare bracci lunghi milioni di chilometri e laser super precisi per sentire le vibrazioni dello spazio siderale. Una creazione enorme, questo strumento, che la Terra è troppo piccola per ospitare, e via al progetto nel 2029. E di questo progetto racconta Carlo Rovelli sul Corriere della Sera, due pagine, 30-31, ve le segnalo. Come vi segnalo che succede a Rimini? A Rimini, io vi giuro, ero un po' basito, ma hanno fatto un'ordinanza definita creativa dal Corriere della Sera. In realtà non è il primo comune che fa una cosa del genere. Per contrastare coloro che vendono le bottiglie di superalcolici, di alcolici, di birra nelle zone della Movida, hanno fatto un'ordinanza a Rimini per vietare di tenere gli alcolici in frigorifero nelle zone della Movida. Che beviti tu una birra calda che sembra piscio, questo è il concetto, beviti tu una vodka non gelata che sembra appunto non lo so che cosa. E quindi Rimini, la birra calda nei negozi anti-Movida. Scattano le nuove regole sugli alcolici in frigo per i mini market a Rimini. Vabbè, siamo invece alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo su Libero, signori. Già c'è la moda dei selfie, che vedi tutti questi come degli imbecilli che fanno queste facce che piacciono solo a chi... ci stiamo facendo un selfie in questo momento sulla pagina pubblica mia di Facebook. Ma in Texas, a Sugarland, hanno fatto una statua in bronzo di due che si fanno il selfie. Non so se avete capito, c'è la statua in bronzo di due che si fanno il selfie e la gente va lì a farsi selfie con la statua che si fa i selfie. Ma chi se ne frega!